Have you ever had experience of the clock tick-tock back? Tick-tock back, time machine. Al di là del bene e del male, ancora vivo nonostante il sale. Bitch, this is time to clap. Come dire no alle roadmap obbligate, come un egiziano ribelle, finire ogni notte con il cervello tra le stelle, con il cervello tra le stelle. Al di là della memoria e dell'amnesia, ancora nel piano logico della musica, componendo la nota, prendendo ogni nota, non solo quella più alta, lo spartito infinito di tutte le parti del vivere, sinfoniche. Sopra ogni frustrazione, ali nuove per volare, direzione paradisi dentro, in cui trovare un centro. Una mia canzone può farti volare, intenzioni sopra ogni frustrazione, ali nuove per volare, direzione paradisi dentro, in cui ritrovare un centro, in cui trovare un centro, un centro. Prima scritta per far volare ogni singolo pensiero, mistero su mistero, continuerò a cercare il tempo esatto del tutto, del mio sbocciare, del mio sbocciare. Ogni rima scritta per volare, ogni singolo pensiero, mistero su mistero, continuerò a cercare il tempo esatto del tutto del mio sbocciare. Al di là delle anime fuori da me, sguardo dentro dove corre ogni mio tormento da ripulire, fuori dall'orrido del mondo, oltre ogni freddo, un monte da scalare, rima su rima sulla quale volare. Blu intenso di ogni mio folle giorno, ancora di te disadorno. Torna da me, torna da me, torna da me, torna da me. Rima su rima sulla quale volare, blu intenso di ogni mio folle giorno, ancora di te disadorno. Torna da me, torna da me, torna da me. Questo è un flow che viene dal cuore, diretto dentro ogni mio singolo rumore interno, per festeggiare il tuo ritorno. Vieni da me, vieni da me. Rima su rima divorando e cancellando ogni rima del mondo, orologio dell'eterno che corre all'indietro per nulla provato da tutto il male che ho visto e ho vissuto. Fresco ancora come a 20 anni, danni su danni, zero effetto, zero effetto. Rima su rima divorando e cancellando ogni rima del mondo, orologio dell'eterno che corre all'indietro per nulla provato da tutto il male che ho visto e vissuto. Fresco ancora come a 20 anni, danni su danni, zero effetto. Rima su rima divorando e cancellando ogni rima del mondo, orologio dell'eterno che corre all'indietro per nulla provato di tutto il male che ho visto e vissuto. Fresco ancora come a 20 anni, i danni su danni, zero effetti, zero danni. Capisci? Fresco come ancora 20 anni.